sorriso mi accoglie la sera. Dentro al tuo corpo la mia anima, come un ricordo sei sempre. Che mi accende.